Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Argomento caldo, il primo che trattiamo questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, non tanto per la temperatura ma per la preoccupazione, i gravi fatti anche di sangue che stanno accadendo. Parliamo dell'Egitto, soprattutto dal punto di vista turistico. Il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini, al telefono con noi. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. È un tema che avevamo trattato appena poche settimane fa, prima che poi scoppiasse la crisi in modo anche più cruento. Se ne era parlato nell'estate, nella primavera del 2011, e adesso la situazione è ancora in prima pagina, con tanti turisti italiani che scelgono proprio l'Egitto per quelle zone. Sappiamo che molti sono stati fatti rientrare, tanti hanno anche preferito rimanere lì dove sono perché hanno detto che stanno abbastanza tranquilli, però a voi sono arrivate varie segnalazioni. Certo Mirko, varie segnalazioni e soprattutto i consumatori in queste ore sostanzialmente non sanno cosa fare per un semplice motivo, che chi deve partire in questi giorni, come domani, dopodomani o in questa settimana, si trova nella condizione di non partire, di non essere tranquillo, perché la Farnesina rispetto al 2011 non vuole dichiarare lo stato di calamità, lo stato di emergenza, ma continua a proclamare bollettini del tipo sconsigliamo andare al Cairo, sconsigliamo andare ad Alessandria, sconsigliamo di qua, mentre dicono che si può andare tipo a Sharm el Sheikh o Mar Salam. Ma lo stesso comunicato dice però fate attenzione che la situazione è in fase di evoluzione, però fate attenzione che se andate nei resort di non uscire. Non capiamo questo atteggiamento così poco chiaro da parte della Farnesina, perché conseguentemente questo mette in condizioni le agenzie e il tour operator a comportarsi come meglio preferiscono e le famiglie a dover valutare o meno se partire a seconda anche di quella che è i propri danni che potrebbero ricevere dall'agenzia del tour operator nel caso che si trovasse una condizione di non partire e quindi aver versato dei soldi. Ecco appunto, questa è la situazione. È chiaro che poi la cosa più importante è la propria salute, il proprio stato di vita, quindi uno anche per buon senso magari preferisce non partire, ma magari dopo aver già versato il prezzo dell'intera vacanza. In questo caso, dal punto di vista proprio regolamentare del codice del consumo e dei diritti, cosa succede? Uno ha pagato, oltre alla caparra, magari anche saldato definitivamente il viaggio, però rinuncia per vari motivi. Uno può essere questo, ma può essere qualsiasi altro motivo anche grave, situazioni familiari. A cosa ha diritto un viaggiatore che ha già pagato tutto il prezzo? Ecco Mirko, tu hai inquadrato esattamente la situazione, cioè nella situazione in cui la Farnesina dichiara che lì non si deve andare perché c'è uno stato di emergenza sociale, in questo senso il consumatore ha diritto a vedersi restituiti i soldi o a concordare una meta alternativa. E quando si parla di concordare significa che non devi assolutamente aggiungere un centesimo in più rispetto a quanto hai versato. Nella realtà delle cose oggi come sta la situazione e in virtù appunto di quelle che sono state le innumerevoli chiamate e contatti che lo sportello Vacanza Informata dell'Adico sta ricevendo e ha ricevuto fino ad oggi, che è uno sportello nato apposta dall'Adico per dare assistenza ai consumatori che sono in viaggio, che devono viaggiare o come adesso che si trovano nella condizione di non saper cosa fare, l'agenzia dei viaggi, tour operator, stanno facendo un po' quello che vogliono, cioè c'è chi ha saldato non vuole partire e rischia di vedersi svanire i soldi, c'è chi deve pagare il saldo e se non paga perde l'acconto, c'è chi viene invitato a cambiare destinazione rispetto ad altre, ma sborsando soldi in più. Noi che per primi, come Adico, ci eravamo appellati a quello che era un senso di responsabilità e di professionalità comunque delle agenzie di viaggi e tour operator rispetto a un atteggiamento che noi riteniamo assolutamente di aiuto da parte del governo e della Farnesina nei confronti delle famiglie, e qua parliamo di 19.000 famiglie, perché a metà dell'Egitto, di Sharm el Sheikh, Mar Salam e tante altre tipo viaggi sul Nilo erano sempre comunque una delle mete più ambite da parte degli italiani. Certamente stanno subendo quello che sono un pochino le belle e cattive sorti che insomma questi tour operator stanno applicando, e quindi rimettendo al consumatore la decisione finale se andare o non andare, e quindi anche sfidare la sorte. Beh, certo, qui chiaramente sta anche nella scelta di ciascuno poi decidere. Ho visto delle interviste di gente appunto che era tranquillamente in vacanza sulla spiaggia di Sharm, molto tranquilli, hanno rassicurato tutti dicendo: qui da noi non sta succedendo niente. Certo, la distanza rispetto al Cairo, ai grandi centri dove ci sono le proteste, è molto ampia. Credo che anche l'interesse economico dell'Egitto per quanto riguarda il turismo sia significativo. Spero che ci pensino almeno da questo punto di vista. So che anche alcune agenzie hanno proposto dei pacchetti alternativi, magari entro poche settimane, per poterli sfruttare, per non perdere quanto si è già versato. Però quello che tu dicevi vorrei che risottolineassi è ciò che dice il Ministero, cioè se il Ministero dà un certo tipo di dichiarazione, di classificazione a questa situazione, ci sono dei diritti, altrimenti no. Certo, se fosse inequivocabile, come è capitato nel 2011 quando è stato deposto Mubarak, al quale il Ministero aveva detto c'è una situazione d'emergenza, si sconsiglia di andare, in questo caso qua problemi non ce ne sono, anche se ribadisco, Mirko, che concordare una meta è una cosa, spostare il periodo in un altro momento è molto più complicato, perché c'è chi ha lavorato un anno e stava aspettando con ansia queste famigerate ferie e dover partire, a vedersi spostare le vacanze magari anche due mesi, c'è la possibilità che o non si trova con la moglie, con la compagna, con gli impegni della scuola dei figli, oppure anche con il datore di lavoro. Noi a tal proposito siamo voluto intervenire dicendo anche che, a far chiarezza, c'è la sentenza della Cassazione del 163.315 del 24 luglio 2007, che dichiara che la irrealizzabilità della finalità turistica per sopravvenuto evento non imputabile alle parti determina l'estinzione di diritto del contratto. Quindi in questo caso i disordini politici non sono colpa né dell'agenzia né del turista. Esatto, e quindi i disordini politici rientrano proprio in questa definizione che la Cassazione ha voluto dare, e che quindi dovrebbe mettere a riparo i consumatori da dover rimanere invischiati in qualche spiacevole e malaugurato fregatura da parte delle agenzie. Certamente, come ho detto, la cosa sarebbe a questo punto molto più risolvibile se ci fosse anche la serietà di questa agenzia, di tour operator, a intervenire su una vicenda che certamente sta creando molto imbarazzo, soprattutto, ripeto, alle famiglie che si trovano in balia a dover decidere loro cosa voler fare in mancanza di questa comunicazione, che alla fine diventa, bisogna un po' interpretarla. E certamente noi ci mettiamo dalla parte di coloro che non si sentono di voler partire e che non vogliono aver perso quei soldi che insomma con tanta fatica sono riusciti a mettere via e a spendere per queste agognate ferie. Per chi avesse bisogno di ulteriori informazioni, c'è lo sportello vacanza informata dell'ADICO, associazione difesa consumatori.it. grazie Carlo Garofolini intanto per queste informazioni, ci ritroviamo per un altro argomento. Grazie a te, Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con ADICO, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.